giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Ancora una buona domenica da Lara Zani e da Elisabetta Zaccolo in studio per questa seconda edizione del nostro giornale radio. Cronaca in primo piano con il ritrovamento all'alba di un cadavere all'interno della diga foranea di Trieste. Potrebbe essere giovane disperso in mare dall'11 giugno scorso. Incendio in un appartamento nell'Erione di Barriera, sempre a Trieste, un macabro ritrovamento sulla spiaggia di Lignano. La festa religiosa del sacrificio celebrata dalla comunità islamica di Trieste e due manifestazioni che giungono a conclusione: il Festival del giornalismo a Ronchi dei Legionari e Mare Nord-Est. In apertura dunque il ritrovamento all'interno della diga foranea di Trieste del cadavere di un giovane, quasi sicuramente quello del 24enne che nella notte dell'11 giugno si era tuffato in mare nel corso di una festa tra amici, senza poi riemergere. È stato rinvenuto all'alba nella zona della diga foranea un cadavere di sesso maschile che potrebbe essere quello del giovane di origini marocchine di 24 anni, richiedente asilo che nella notte tra lunedì e martedì si era tuffato in mare tra il Molo Terzo e il Molo Quarto in Porto Vecchio a Trieste e non era più riemerso. Dopo i primi giorni le ricerche continuavano nell'ambito dell'attività istituzionale della Capitaneria di Porto, poi la segnalazione arrivata dalla società Canottieri Adria. Capitano di fregata Achille Selleri, Capitaneria di Porto. Nelle prime ore di questa mattina siamo stati avvisati dai canottieri che facevano normale attività di allenamento in porto del ritrovamento di un corpo senza vita. La motovedetta della Guardia Costiera è intervenuta per il recupero di questo corpo. La zona è a ridosso della diga del Porto Vecchio di Trieste. La vedetta della Guardia Costiera ha proceduto al recupero per il successivo trasbordo sulla banchina prospiciente la sede della Capitaneria di Porto per i primi accertamenti. A seguire il trasferimento in obitorio dove il corpo si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria. A far ipotizzare che il cadavere appartenga al giovane disperso e soprattutto il luogo del ritrovamento, molto vicino a quello dal quale era finito in acqua. Secondo le prime ricostruzioni il suo sarebbe stato un tuffo volontario, non un malore. A testimoniarlo le immagini di alcune telecamere del Porto Vecchio dove si vede il giovane che nuota allontanandosi dalla riva. Il ragazzo era con alcuni amici, a dare l'allarme era stata una ventenne di Trieste, anche se le informazioni che aveva fornito sull'accaduto erano molto confuse. La cronaca registra anche un incendio avvenuto poco prima delle 7 di questa mattina a Trieste, in via Corridoni, nel rione di Barriera, in un appartamento. Tempestivo l'intervento di due squadre dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e hanno fatto uscire tutti gli inquilini in via precauzionale. Alcune persone che hanno respirato i fumi della combustione sono stati visitati dal personale del 118, ancora in fase di accertamento le cause dell'incendio. Macabro ritrovamento ieri pomeriggio sulla spiaggia di Lignano. Durante le operazioni di sistemazione dell'attrezzatura di uno stabilimento, un dipendente ha ritrovato un osso di 30 cm in mezzo alla sabbia, apparentemente una tibia. Ha dato l'allarme e sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti. Da verificare se si tratti di un osso umano e come sia finito lì. Al momento non sono stati presi ulteriori provvedimenti e l'area non è sotto sequestro. La zona, come tutta la spiaggia di Lignano, è stata sottoposta a una profonda opera di ripascimento ed è possibile che l'osso sia stato raccolto insieme alla sabbia che è stata depositata sull'arenile. Ci sono anche alcuni ultra provenienti dalla provincia di Udine tra i 67 fermati ieri sera nel centro di Dortmund dalla polizia tedesca che ha evitato scontri con i tifosi albanesi poco prima della gara dei campionati europei di calcio. Sequestrati passamontagna, mazze e bombe carta. Gli ultra sono stati rilasciati dopo un fermo di qualche ora. In Germania, a supporto delle forze dell'ordine tedesche, ci sono una sessantina di agenti della polizia italiana, tra cui alcuni della Digos di Udine, Padova e Roma, specializzati nell'ordine pubblico. La pagina dedicata al tempo, nuvolosità variabile sulla regione. Queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 24 gradi, mare poco mosso con una temperatura di 22 gradi e mezzo, a Corizia 25 gradi, a Pordenone 24 e mezzo, a Udine 24, a Tolmezzo 20 gradi e mezzo, a Forni di Sopra 18 e mezzo, a Tarvisio 16 e mezzo, a Sappada 14 e mezzo, a Piancavallo 14 gradi, sul Monte Zoncolan 10 gradi e mezzo, sul Monte Lussari 9, a Lignano 27 gradi e mezzo, a Grado 23. Qua la temperatura del mare è di 22 gradi. E vediamo le previsioni dell'ARPA Friuli Venezia Giulia. Su pianura e costa cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, sui monti cielo in genere variabile, con nuvolosità più consistente sulle prealpi e in Carnia, dove saranno possibili piogge sparse e temporali, forse più insistenti sulle prealpi carniche. Qualche rovescio temporale sarà possibile poi anche in pianura, brezza sostenuta nel pomeriggio sulla costa. La comunità islamica di Trieste questa mattina si è riunita in preghiera per la celebrazione della festa religiosa del sacrificio, una cerimonia aperta al pubblico che si è svolta presso il campo sportivo a San Luigi. L'Islam è pace. Al campo sportivo di Trieste, dove si celebra la festa del sacrificio, presente sui libri sacri di tutte le religioni monoteiste, l'imam di Trieste lo scandisce due volte, in italiano. Ci sono un migliaio abbondante di musulmani di ogni nazionalità ed etnia, almeno 50, i colori africani, il nero dei bosniaci, gli abiti tradizionali di ogni tipo, dal Marocco all'Afghanistan al Bangladesh. Una festa che coinvolge separate le donne, circa 80 stanno in fondo con i bambini, mentre gli uomini pregano davanti. La comunità islamica, quasi esclusivamente sunnita, è in continua crescita a Trieste, circa 8.000 persone, seconda comunità religiosa del capoluogo assieme agli ortodossi, due le associazioni, la storica Ar Arayan, con sede in via Maiolica, e la più recente Said Nursi, presente da 20 anni, e che fa riferimento ai curdi che, dopo aver pregato per anni nel centro di via Maiolica, ha acquistato un nuovo locale che sarà adibito a luogo di culto in via Sette Fontane. Il dialogo interreligioso con la comunità locale rimane la priorità. Alla festa non erano presenti le altre confessioni, raccogliamo il clima secolare che hanno seminato gli altri, dice il presidente della comunità islamica triestina Akram Omar. Ci piacerebbe avere anche noi un vero luogo di culto, una moschea. A Trieste non sarebbe un problema, mi auguro. Per favorire l'integrazione si organizzano sia corsi di arabo per i bambini e chiunque voglia avvicinarsi alla cultura, sia corsi di italiano per uomini e donne immigrati. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Ultima giornata del Festival di giornalismo Leali delle Notizie a Ronchi dei Legionari, che quest'anno ha festeggiato la 10ª edizione. Tra gli appuntamenti di oggi, uno dedicato alla tragedia degli Yazidi, vittima di una vera e propria persecuzione a opera dello Stato Islamico in Medio Oriente a partire dal 2014. Sentiamo. Sara Lucaroni, giornalista, autrice della Luce di Shingal, Viaggio nel genocidio degli Yazidi, un saggio che nasce dalla sua esperienza di reporter in una zona di guerra, il Kurdistan, che dal 2014, insieme ad altre zone del Medio Oriente, è stato teatro della guerra scatenata dallo Stato Islamico, l'ISIS, e tra le vittime appunto il popolo degli Yazidi. Perché ancora oggi tenere vivo il ricordo di quella vicenda? E poi, è una vicenda conclusa? Qual è la situazione oggi? Nei nostri giornali, nei nostri media, ci si concentra sempre sull'ultimo conflitto. Ci si occupa di paesi con i quali abbiamo interessi. Per quanto riguarda invece una questione più ampia, non torniamo mai a parlare di conflitti avvenuti in passato. È esattamente il caso degli Yazidi. Ne parlavamo qualche anno fa perché uscivano le cronache delle donne rapite. Che cosa avveniva alle donne rapite dallo Stato Islamico? Quindi c'era anche una certa morbosità. Sconfitto lo Stato Islamico territorialmente, non se ne è parlato più. Oggi invece gli Yazidi hanno ancora bisogno di noi, hanno ancora bisogno di stare sulle pagine dei giornali, anche sulle prime pagine dei giornali, perché si parla di persone che non sono tornate più a casa, rapiti di cui non sappiamo più nulla, sono circa 2.000 le donne di cui non sappiamo più nulla, perché l'85-90% del territorio è ancora totalmente distrutto, perché non ci sono ospedali, infrastrutture, e soprattutto perché non c'è giustizia. Chi ha compiuto quei crimini nessuno l'ha portato alla sbarra. Ronchi dei Legionari, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Si conclude oggi la manifestazione Mare Nord-Est, caratterizzata quest'anno dalla traversata delle tre nazioni, 27 chilometri di bracciate da Punta Salvore a Trieste, con la partecipazione di atleti di Italia, Croazia e Slovenia. È declinata sul tema del mare senza confini la 13ª edizione di Mare Nord-Est, manifestazione triestina dedicata alle attività marine, è sviluppata su una pluralità di approfondimenti, dallo sport alla cultura, dalla scienza all'arte, senza dimenticare l'emergenza dell'inquinamento ambientale. La manifestazione è stata organizzata in una tenso struttura di 700 metri quadri allestita in Piazza Unità. Appuntamento d'eccezione di questa edizione è la traversata delle tre nazioni Croazia, Slovenia e Italia, con la campionessa Silvia Boedi e la campionessa mondiale di subacquea Valentina Cafolla, impegnate in 27 chilometri di bracciate da Punta Salvore a Trieste. L'iniziativa è stata intesa a sottolineare l'impegno di salvaguardia dell'Adriatico e di coinvolgimento a tutela del patrimonio naturalistico. nella tre giorni, oggi in chiusura, sono stati poi proposti laboratori didattici per giovanissimi, la presentazione del progetto NAMIRS per il rafforzamento della tutela del mare, una serata dedicata all'osservazione delle stelle dal Molo Audace e una sfilata di moda. Trieste, Maria Spezia, TGR, Friuli Venezia Giulia. Si chiude così la nostra edizione del nostro giornale radio. In redazione ha collaborato Cristina Polselli, per la parte tecnica in regia Paolo Cassano e Mauro Ciccarelli. Da parte di Lara Zani ed Elisabetta Zaccolo che vi parla, grazie per l'attenzione e ancora l'augurio di una buona domenica. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.